GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Porta la firma di Zlatan Ibrahimovic il 16esimo scudetto della storia dell'Inter. Lo svedese, al rientro dopo 2 mesi di stop per l'infortunio al ginocchio, firma la doppietta che vale il 2-0 a Parma. Massimo Moratti, col tricolore in tasca, si prende qualche rivincita. Sono felicissimo, mi sembra che a nostro avvento un campionato, malgrado ci sia tutta Italia che sinceramente abbia tifato contro, ma questo ci rende ancora più fieri e più orgogliosi, essendo una società questa bellissima che meritava questa vittoria. Beh, la squadra sono state formidabili, li ho visti anche nel primo tempo, Mancini li ha riuniti tutti con molta forza, molta sicurezza, e gli ha dato la sicurezza, la fiducia per poter vincere. Il capitano nerazzurro Zanetti a Sky Sport. L'Inter ha dimostrato grande maturità, ha dimostrato di essere una grande squadra e che voleva vincere questo campionato. C'erano delle preoccupazioni normali, perché la Roma, faccio i complimenti perché ha fatto un grandissimo campionato, però credo che l'Inter ha dimostrato ancora una volta che è stata la più forte. In queste 2 ultime settimane si è detto di tutto su di noi. Dopo che abbiamo perso il derby, tutti erano tifosi del Siena. Abbiamo pareggiato col Siena, tutti volevano che vincesse la Roma. Purtroppo la festa sarà a Milano ancora. I gol di Ibrahimovic fanno sfumare le speranze tricolori della Roma, fermata sull'1-1 a Catania. De Rossi parla di campionato falsato a favore dell'Inter, Spalletti evita polemiche. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, nel senso abbiamo giocato la nostra partita, qui è un campo difficile e noi abbiamo pareggiato la partita e l'Inter l'ha vinta. È stata più brava l'Inter di noi, il campo, l'impegno dei ragazzi ha dettato questi risultati. Il pareggio per gli etnei significa salvezza. Col Parma va in B l'Empoli, che pure supera 2-1 il già retrocesso Livorno. Quarto posto e qualificazione in Champions per la Fiorentina, che batte fuori casa il Torino per 1-0 con una rovesciata di Osvaldo. Il tecnico viola Prandelli. Abbiamo fatto una stagione straordinaria. Il calcio è strano perché un gol ti fa cambiare opinioni, pareri. Noi siamo quelli di 2 settimane fa con un po' di difficoltà, ma con una grande dignità, un grande orgoglio. E quindi devo soltanto, per l'ennesima volta, ringraziare questi ragazzi che sono stati straordinari. Non serve quindi al Milan la goleada 4-1 contro l'Udinese. Per i rossoneri il prossimo anno sarà Coppa UEFA. Ancelotti. Ci calleremo con umiltà in questa competizione nuova per noi e poi concederemo grande attenzione al campionato. Ho voglia e piacere di restare qua, c'è una grande sintonia con tutti, con i giocatori, con la società e con i tifosi, quindi il mio cammino proseguirà con rinnovato entusiasmo. Credo che faremo un anno di purgatori, ma questo credo che ci potrà servire per mantenere il Milan ad alto livello. Capocannoniere Del Piero con 21 gol. Gli altri risultati: Lazio-Napoli 2-1, Atalanta-Genoa 2-0, Cagliari-Regina 2-2, Siena-Palermo 2-2. E giornata speciale per un tifoso interista ad hoc è Valentino Rossi, che trionfa nel Gran Premio di Francia e torna in testa al Mondiale MotoGP. La testa del Mondiale è la cosa più importante, il nostro obiettivo è quello, però il campionato è molto lungo. Sappiamo che la nostra moto e le nostre gomme vanno molto bene, quindi adesso bisogna rimanere concentrati, lavorare come abbiamo fatto fino adesso per fare le prossime gare. Per i playoff di basket sarà a Milano a sfidare Siena in semifinale. Ieri i Lombardi hanno superato Montegranaro per 61-78 in gara 5. Roma-Avellino l'altra semifinale. E ora il Giro d'Italia. Oggi Giro riposa dopo 9 tappe e 1671 chilometri percorsi. La Corsa Rosa tira un po' il fiato. Ieri volata vincente di Daniele Bennati, il velocista latino coglie la sua seconda gemma rosa e fa ingoiare l'ennesimo boccone amaro al campione del mondo Paolo Bettini, che in questo giro e in questa stagione non riesce proprio a rompere il digiuno. Giovanni Visconti, siciliano di Toscana, porta tra i 6 tifosi che l'hanno adottato in questi anni la sua maglia rosa. Per il quarto giorno veste le insegne del primato e domani, nella difficile e temuta cronometro da Pesaro Urbino, partirà per ultimo con la concreta possibilità di restare primo in classifica generale. Ferragosto Stage, R24, Sole 24 Ore, Pesaro. Chiudiamo col tennis. Nadal batte Federer in 3-7 e vince ad Amburgo. Tra le donne, a Roma, secondo successo della serba Jankovic, che in finale regola in 2-7 la francese Cornet. Vi ricordo l'appuntamento alle 14 con A Tempo di Sport. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.